Un buon pomeriggio e un saluto agli ascoltatori di Fujiko Factory. Oggi siamo qui con Tommaso Milani, che è stato il vincitore del premio Radio Città Fujiko al Vociferando Festival di quest'anno, che oggi andremo ad intervistare. Ciao Tommaso e grazie per essere qui ai nostri microfoni. Ciao Maurizio. Allora, Tommaso è un giovanissimo cantante. Tu hai 15 anni, se sì, non sbaglio, esatto. Giusto? Tommaso ha partecipato quest'estate al Vociferando Festival, che è un festival di canto che si tiene a Cado e Mandorli, a San Lazzaro, che quest'anno è giunto alla 14ª edizione, che è organizzato dalla Scuola di Musica Musicarti, i cui organizzatori sono Alessandro e Gloria, a cui mandiamo ovviamente un calorosissimo saluto. L'edizione di quest'anno è stata vinta da una bravissima Giada Luppi, a cui è andato il primo premio, e invece Tommaso ha vinto il secondo premio, e il premio possiamo chiamarlo della critica, diciamo, dai, il premio Radio Città Fujiko, con cui abbiamo omaggiato il cantante che secondo noi più era meritevole di visibilità e che più ci ha sorpreso in questa, appunto, manifestazione canora. Allora, Tommaso, innanzitutto volevo farti questa prima domanda, prima che tu ci parlassi un po' delle tue esperienze. E innanzitutto, che cosa ti ha portato a cantare? Cosa ti ha avvicinato al canto? Cosa ti ha fatto dire, ovviamente tu eri in giovane età, ma qualche sentimento e qualche pensiero l'hai sicuramente avuto, cosa ti ha fatto dire io voglio fare questo? Allora, più che cosa, chi? È stata la mia maestra di canto, che approfitto per salutarla, Stefania Todesco e suo marito Stefano Medici, dell'Accademia di Musica di Padova. E iniziai appunto all'età di 4 anni e mezzo suonando il pianoforte. E suonando il pianoforte, però, la mia maestra, appunto Stefania, si accorse che quando suonavo le varie note, le cantavo, mi piaceva cantare le note. E lei, ovviamente, maestra di pianoforte, bravissima pianista e di canto, e mi ha fatto provare che cosa volesse dire l'arte del cantare, ecco. Da quando avevo 5 anni questa passione mi è subito colpito e sono andato avanti a fare quello che mi riusciva meglio, A studiare canto. Sì, quindi ho mollato purtroppo il pianoforte e altri vari strumenti che avevo provato in precedenza e mi sono concentrato sul canto. Ottimo, insomma, e questo percorso ti ha portato, insomma, a dei risultati ragguardevoli, perché ho visto che quest'anno ti sei guadagnato la partecipazione a un concorso molto importante. Dici qualcosa di questa tua ultima esperienza che hai avuto dopo il Vociferando? Sì, allora ho partecipato al concorso Top Voice Italy, organizzato dalla Daigo Music School, e questo concorso mi ha dato l'opportunità di ricevere un invito per l'Euro Music Vision di Bucarest. E sì, ecco, mi hanno invitato a Bucarest a partecipare all'Eurovision. E per me cosa veramente, veramente, sono veramente lusingato, cioè una cosa, onorato di partecipare a questo grande concorso, perché mi sembra che sia... È uno dei più importanti d'Europa. Sì, mi sembra un concorso un po' importante, ce la metterò tutta perché veramente è quello che al di là... Come dico, al di là degli applausi devo sentirmelo dentro, che come canto, se canto bene, se canto male, e poi ovviamente ci sono i giudizi dei giudici. Sono sicuro che non ci deluderai e infatti ti auguriamo, tutti noi di Radio Città Fujiko, moltissima fortuna per questo contest, e ovviamente ci vuole anche quella, ma non solo, perché il talento, insomma, ce l'hai, e lo sai, insomma, bisogna coltivarlo e studiarlo, e non ho dubbi che tu voglia anche far sentire ai nostri ascoltatori la tua voce, qualcosa di tuo. Quindi hai detto che volevi portarci qualcosa da cantare oggi, forse più di qualcosa. Sì, avevo intenzione di portare un brano tratto dal musical Notre Dame de Paris, Bella, di cui canterò un estratto, e un brano di Enrico Nigiotti, nonno Hollywood, di Enrico Nigiotti. Il brano che ha portato a Sanremo 2019. Ottimo, ok. Bella, tratta dal musical Notre Dame de Paris. Bella, la parola bella nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei. ma sale su l'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna da gitana, con quale cuore prego ancora a Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Bella è il demonio che si è incarnato in lei, per strapparmi gli occhi via da Dio. Lei che ha messo la passione e il desiderio in me, la carne sa che paradiso è lei. C'è in me il dolore di un amore che fa male, e non mi importa se divento un criminale. Lei che passa come la bellezza più profana, lei porta il peso di un'atroce croce umana. Oh Notre Dame, per una volta io vorrei per la sua porta come in chiesa entrare in lei. Stupendo, magnifico. Ma a proposito di musica, volevo chiederti, hai qualcosa in cantiere, qualcosa che, su cui allora, stai lavorando? Qualcosa in cantiere, sì, sto lavorando su un, inedito, ok? Su un inedito, sto lavorando su un demo. Ok. E mi piacerebbe lavorare con particolari due artisti, che è il mio sogno quello. È una cosa che molto difficilmente si avvererà, ma io spero e continuerò Non si sa mai. E continuerò a studiare per raggiungere questo obiettivo. Grazie al concorso Vociferando ho potuto conoscere Gloria Bonaveri, che sì, saluto, e Alessandro Margozzi, che saluto. Salutiamo tutti e due, entrambi. Tramite loro due io ho conosciuto un duo, ok, che sono due fratelli, i Blonde Brother. Sì, ok, sì. I Blonde Brother, che saluto. E mi piacerebbe tanto fare un brano con loro. Beh, siamo sicuri che Alessandro e Gloria avranno sicuramente piacere a metterci una buona parola per quello che è in loro facoltà. E il demo su cui stai lavorando, sai dirci qualcosa riguardo a questo? Quando uscirà? Se ha un nome, ha un'idea, in lavorazione? Allora, è in lavorazione, non so quando uscirà, ok? Sto scegliendo le varie canzoni, non ho ancora una data certa. So dirvi il nome, come si chiamerà. Okay. Sbagliare sì, ma con il cuore, ecco. Bello. Perché sono famoso per dimenticarmi le parole. Un po' come Ultimo, dai. In ogni caso, date sempre un'occhiata al sito di Radio Città Fujiko, su cui ovviamente ci sarà il podcast di questa intervista, e su cui provvederemo a inserire eventuali notizie o novità quando ovviamente sarà il momento. Inoltre, quando era il primo giugno di quest'anno, c'è stato anche il tuo esordio nel mondo dello spettacolo con Sara di Vittorio Matteucci, giusto? Sì, perché io prima di allora non avevo mai partecipato a un musical. Questo spettacolo invece mi ha dato l'opportunità di capire anche cosa fosse un musical. Un musical l'ho capito adesso, so cos'è, so la sua bellezza, so apprezzarlo. Prima non gli davo peso, invece è stata l'esperienza più bella che abbia mai fatto in questa mio piccolo angolino di vita, che non sono un uomo vissuto. E con questo spettacolo abbiamo anche raccolto un po' di fondi per Team for Children, una associazione di Padova, è reparto, spero di non sbagliarmi, oncologia di Padova. Okay, sui tumori legati ai bambini. È stata veramente un'esperienza indimenticabile, veramente è stato di più. Io pensavo solo a quei bambini che stavano lì, perché c'erano dei ragazzi che stavano proprio là, erano venuti allo spettacolo, e quella è stata la nostra più grande gratitudine. Eh sì. È stata una veramente un'emozione. Quando sono saliti sul palco ci hanno ringraziato, e là va oltre l'applausi della gente, va proprio a toccarti dentro, e ce l'abbiamo messa tutta. Poi con i vocal coach e con i coach di dizione, di recitazione, appunto, e vocal coach che vorrei salutare. Quindi saluto Stefania Miotto e Cristiana Lirussi, saluto Guido Laurini, il maestro di dizione, e saluto soprattutto Nicola Albano, che era il produttore e l'organizzatore, e saluto poi Vittorio Matteucci. E ora siamo in conclusione, perché appunto il tempo è tiranno in radio, come tutti sappiamo, e dopo appunto questa bella chiacchierata prima hai detto che volevi portarci anche l'ultimo brano cantato. Sì, un brano di Enrico Nigiotti, uno dei miei cantanti preferiti. Ok. aggiungo. Il brano è Nonno Hollywood, ok? E appunto il brano di Sanremo 2019. Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere, non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che agli incroci ti suonava il clacson. E nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre sta a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, e non lo so. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, nel semplice, nel semplice. Sorridere in un giorno che non vale niente, sembra un po' il secondo tempo di una finale da scordare. Come un taxi alla stazione che non riesce a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci ma prende noi. Il nonno sogno sempre prima di dormire, cerco di trovare un modo per capire. Corriamo tra i sorrisi dei colletti giusti, ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri. La vita resta un ponte che ci può crollare, la vita è un nuovo idolo da scaricare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, e non lo so, e quindi mi tengo stretto addosso ai tuoi consigli, perché lo sai che qua non è mai facile per chi fa muso contro ancora. E quindi per ogni volta che vorrò sentirti chiuderò gli occhi su questa realtà. Mi hai lasciato dentro un mondo a pile, una generazione che non so sentire. In fondo siamo storie con mille dettagli, fragili e bellissimi. Tra i nostri sbagli mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, e non lo so. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, e non lo so. Ci siamo arrivati alla fine di questa bellissima intervista, e per cui andiamo a concludere. Ti chiedo se hai ancora qualcuno che vuoi ringraziare o se hai qualcosa, qualche appuntamento da ricordarci delle tue prossime esibizioni o insomma cose che hai in cantiere. Allora sì, intanto vorrei ringraziare Radio Città Fujiko per l'opportunità. Vorrei ringraziare i miei genitori che mi sostengono sempre, ogni volta o e dovunque. Come ho detto, i miei maestri, i vocal coach e tutte le persone che lavorano con me e a cui sto insieme, quindi i miei compagni di classe e le mie professoresse del Calvi di Padova. Da pensarci bene, ho una data da dirvi, da annunciarvi. E con la nostra compagnia teatrale, appunto con la compagnia teatrale della Daigo Music School, abbiamo in programma di fare il 10 novembre al Teatro ai Colli di Padova Sara, l'amicizia oltre il dolore. È un dramma musicale. Ci terrei molto che voi veniste. In bocca al lupo a tutti i ragazzi che lavoreranno al musical, che faranno il musical, perché siamo veramente una compagnia affiatata, perché vogliamo regalare emozioni e vogliamo soprattutto regalare qualcosa che vada oltre agli applausi nostri. Quindi insomma un bocca al lupo a te ovviamente per il tuo spettacolo. Grazie, e per la tua, per il tuo percorso musicale, per la tua carriera, possiamo già permetterci di dire. L'appuntamento che ci segniamo quindi è il 10 novembre al Teatro ai Colli di Padova, e io Tommaso ti ringrazio per essere stato qui ai nostri microfoni. E vi ricordo che siete su Radio Città Fujiko 103.1 FM in quel di Bologna, e noi ci risentiremo sicuramente, perché sono sicuro che un giorno tornerai qui nei nostri studi. Grazie. E ringraziamo tutti gli ascoltatori e ringraziamo i ragazzi di Fujiko Factory che ci hanno mandato in onda l'intervista, e quindi buon proseguimento su Radio Città Fujiko e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti.